quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Amala, pazza intera amala. Che sei, ma che sei matto? È una gioia infinita. Oh! Pazza intera amala. Oh! Va dentro Luis Adriano, andato via, strepitoso. Ma porca. Questa storia di vita. Allora, per Guarin, scattato Icardi, Guarin accena, palla sul sinistro, Guarin parte il tiro, rete, Guarin, gran gol, Inter in vantaggio. Capito, però anche te, Peter, cioè... Si abbassa Balotelli per impostare l'azione offensiva, ne ha due addosso, cerca ancora Balotelli. Il numero Balotelli, zona tiro, Balotelli, palo, splendido tiro di Balotelli. Allora, no, io lo dico subito. In questi casi, e la voglio convocare, io invidio Veronica Gentile. Proprio. Veronica, buongiorno, ciao. Ma buongiorno. Come ti invidio, tu che del calcio proprio non... Credo che debba essere una mattina traumatica, infatti stavo scorrendo le notizie, infatti... perché ho detto adesso questo mi chiede. Ah, ecco, perché Inter. Tu lo sai che c'è stato il derby, sai come è finita. Guarda, mi è stato detto soltanto perché qualcuno, qualche amico maschio dice sto vedendo il derby. E credo che sia una mattina di dolore per qualcuno, però io abbastanza. Intanto dolore alla schiena due giorni che manco faccio fatica a respirare per il dolore alla schiena. E addirittura? E vabbè, mi sono portato preventivamente. Avanti. Come mai, la vecchiaia o la vecchiaia, le, mi sa, la vecchiaia. Le escursioni estive? No, che altro pensavi? No, non lo so, no, niente, guarda, anche applicandomi, anche usando tutti i trisom che possono venirmi in mente, niente. Con te non, la mia fantasia si ferma purtroppo. Ma come? Alle punte della spesa. Ma come? Ma no, c'è proprio il solito due di picche stampato in fronte così, ma già ha perso il Milan. Poi... No, ma infatti non devo uscire. Aspetta un attimo, me la togli sta minchia di canzone da sotto, per favore. Guarda come si innervosisce. Oh, porca miseria. Va bene, ma tutto. Toglila! Allora buono per Guarin, scattati i carti, Guarin accelera. Cioè, perché tu devi capire che e questi sono milanisti come me, cioè Peter Bescapè è milanista come me. Ho capito. Oh, senti per che prendere pace. In giro un amico, uno è disposto a fare qualunque cosa, no? No, esatto. Tra l'altro, sì, ma si pigliano in giro anche da soli. Certo, perché anche quello. Si autopigliano in giro. Allora, voglio convocare subito anche un altro disperato. Ma chi ha detto piazzato? È proprio lui! È De Mai! Ma chi? 1-0 Federico Chievo. Novella, eccolo qua, eccolo, Federico Novella. Anche lui che non naviga in acque migliori, Sì, qua devo dire, oggi in Milan non infierisco perché è come sparare sulla Croce Rossa. Sulla Croce Rossa nera in questo caso, se no poi ti raccogliamo un cucchiaino stamattina. Ti ringrazio. Bentornato Federico, che gioia. Ciao, eccoci qua, il conduttore di Mattino 5 alle 9, pronto a parlare del derby? No, spero di no. Allora, due ore solo sul derby. Due ore sul derby. Con Veronica, opinionista sportiva. Perfetto. Mi ha studiato quest'estate. No, mi ricordate, sì, mi ricordate e invidio tantissimo Veronica per quel film di Fantozzi. E quella scena, tu te lo ricordi, caro Federico, il professor Inge, dottor Cobram, Cobra. La Coppa Cobram, certo, quello che istituì la Coppa Cobram, ovviamente, di ciclismo, perché era un fanatico di ciclismo, e invece il calcio, ecco. Il ciclismo è uno sport sano e alla portata di tutti, contro la vecchiaia e le malattie, ma soprattutto conferisce grande lucidità ed efficienza sul lavoro. E il calcio? Beh, e il calcio? Beh, cosa? Beh, lo schifo. Vomito. Ecco, il calcio, effettivamente, Veronica. Esattamente. Stamattina mi è venuto in mente che sembrava il calcio, che sport. Beh. Lo vedi? Ma io te l'ho detto, guarda, quando io faccio delle scelte depurative, tipo il calcio, voi dovete darmi retta. Ah, beh, il calcio, mi fa male la salute, siete più brutti. Beh, che sport dovremmo fare? Facci capire. Infatti. Vi liberite tante altre cose adesso, su. Tipo Pilates, tipo Pilates, sai che mi hanno consigliato per la schiena, mi hanno consigliato, te stai scherzando, per la schiena Pilates, forse devo andare a fare Pilates. Quello dovresti fare. Ma ormai venire a Roma e qui abbiamo un'insegnante molto molto brava che segue tutti noi casi umani col mal di schiena, perché oppure nel dubbio solidale. Ci diamo all'ippica. Ah, quindi anche tu fai Pilates? Quello anche, sì, io faccio Pilates. Possiamo aggiungere un'altra informazione? Lanciamo subito un sondaggio al 349-238-6666. Vorreste fossero diffuse le foto di Veronica Gentili mentre fa Pilates? Bene, che numero bisogna fare? Ripetiamolo. 349-238-6666. No, messaggi però, non è che dovete fare. Cioè, non è il numero, non è il numero di Veronica Gentili questo. Adesso lo esageriamo. Vuoi farlo come fece Adinolfi che lasciò il cellulare? No, ti ringrazio, questa proposta me l'hai fatta anche ai tempi quando parlavo con Adinolfi. Ma magari cambi idea. Almeno lascia l'indirizzo di casa. Cioè, Questa è un'ottima idea, lascio l'indirizzo di casa e il telefono per quelli che non fanno in tempo ad arrivare in tempo. Vabbè, che dobbiamo fare? Dai, apriamo subito il Parlamento, che qua devo chiarire una cosa insieme vado a prendere un caffè a Peter Bescapè in regia e al nostro Lorenzo Nespoli in redazione. Allora, sappiate che Veronica Gentili venerdì scorso, quando era l'11 settembre, insomma, ha partecipato alla marcia a piedi scalzi. Litighiamo. Federico Novella a piedi scalzi, sai la marcia quella per i profughi a piedi scalzi. No, ma io dico ma non c'è veramente tempo da perdere, Federico cammini tu su un terreno minato, io ero a piedi scalzi ma camminavo sulla strada, no, anzi avevo anche le scarpe, tu attento a quello che dici. Ma ce l'avevi le scarpe? Non ce l'avevi? Ce l'avevo, certo che ce le avevo. Allora hai fatto la marcia a piedi scalzi fricchettona con le scarpe, no? Siete veramente attaccati al senso etimologico delle parole. A piedi scalzi era metaforico, ma voi non ce la potete fare a questi. Poi adesso cominciamo con le filippiche, no? Queste cose di cachic di sinistra, perché tanto è l'unica cosa che si dice. Cachic di sinistra è la marcia a piedi scalzi, non siamo noi, cioè. Scusa, no, è chiaro che non siete voi, voi no, certo, non mi verrebbe mai da dirvelo. Stavo dicendo che queste sono le prime accuse, capito? Radical chic di sinistra, buonisti, la retorica, tutte così, tutte chiacchiere, solo chiacchiere distintivo. Chiacchiere distintivo siamo. Nei fatti siamo andati a portare un po' di supporto e un po' di cose, cioè oggetti in questi centri, e soprattutto uno manifesta il proprio atteggiamento nei confronti di questa macro tematica, cioè c'è una parte dell'Europa che dice andate, non li vogliamo, invece... e l'altra che dice cioè, perché facci capire questa marcia noi, io ho invitato anche qualche giorno fa uno degli organizzatori, questa marcia vuole simboleggiare un po' il viaggio che fanno questi profughi senza niente. Il senso è, c'è un'empatia, uno capisce quali sono le difficoltà del doversi spostare e cambiare vita e quindi dice no. Capito, Federico, tu sei un senza cuore. Io sono sempre stato contro le marce, guarda, ma in generale. Posso stare a parlare con voi due di marce degli scalzi, ve ne prego. Prego, ma tu devi convincerci, così alla prossima magari veniamo anche noi. Venite voi, così si decade la marcia degli scalzi all'istante sul vostro arrivo, ragazzi. No. Federico, ma perché ci ha preso? Dividere tutto in buoni e cattivi, quelli che marciano, quelli che non marciano sono i cattivoni, che non vogliono invece, i profughi. Ma no, ma per così, esempio, scusa, Federico Novella ha fatto una cosa concreta. Parla di denatalità e lui ha tre figli e non è detto che si fermi qui. Non marcette, vorrei dire, capisci? Io ho saputo che c'è un interesse personale della Merkel a adottare Federico e famiglia in Germania. No, ma è chiaro. Merkel, ci vai tu. Scusate. C'è il rischio Eurabia. Eccolo qui, Federico Novella. Però aggiungo, datemi la mano, nel senso. Sì, appunto, io sono a due, tu Veronica. Andiamo a fare. Io purtroppo ancora non ho fatto nulla. Eccola lì le marcette. Perché non alzo il tasso demografico e quindi c'è. No, scusa, Federico, questa l'ho persa. Ho colto solo la seconda parte, marcia di meno, ma è la prima. No, nel senso, è chiaro, marcia di meno e stai più tempo a casa. Cioè, c'è un sacco di consigli sottintesi. stai a casa e marcia casa, di meno. Ecco. Per ora, anziché alzare il tasso demografico, si limita ad alzare il tasso alcolico, secondo me, Veronica. Se lo testimonia, secondo me. Vabbè, comunque, devo dire, assolutamente sì, da Cosenza ci dicono foto di Veronica Gentili, sempre e comunque. Pieretto, vorrei vedere le foto di Veronica Gentili in miniera, questo è Pieretto che... Oh, gli manderemo anche quella. Roby, voglio la prima foto. Cosa vuol dire la prima foto? Non ho capito. Vabbè, la prima foto. La prima che... Scusa, ma adesso io sono ignorante. Ma il Pilates è un'attività, diciamo, seducente? No. No. Diciamo no. Che fatta però da Alessandro, tutta. No. Ah. Volano insulti gratuiti. Sì, sì, sì, sì, è così. Stamattina, ragazzi, è così, destro-sinistro. Cioè, praticamente... Il tennis è un ping-pong selvaggio, esatto, con palline in faccia. Cioè, io praticamente già arrivo qui dopo la sconfitta nel derby e mi devo sentire trattato a schiaffoni. Ma tu attacchi con la marcia degli scalzi, ma pure tu. Ah dai, sulla marcia, la marcia degli scalzi. Allora, senti Salvini, dai, il commento, no, la marcia degli scalzi di Salvini. No, l'hai voluto, eccolo qua, Salvini. E ieri c'erano migliaia di italiani da Venezia a Milano a piedi nudi. A parte i problemi per l'inquinamento ambientale, ma è il mondo al contrario. Il profugo, colui che scappa davvero dalla guerra, è un mio fratello. L'hai sentita questa? Sì, ma abbiamo sentito anche però, il profugo è mio fratello. Certo, ma ha anche detto che lo ospiterebbe nel suo bilocale. E lì ci ha avuto, secondo me, 10 minuti un po' stile Cameron, no? Quindi ha detto, ma metti caso che piglio 2 voti in più dall'altro lato, dicendo anche una cosa che un po' fa sfondo umano. Allora ha detto, fammela dire questa, tanto che male mi farà. Del resto, sì, ruspa dopo ruspa, non è che se dico che lo prenderei a casa... Poi lì si aprono casa dove si aprono tutte cose, sì, c'è tutto, sì, questo, sì, questi retroscena che su questo appartamento che ha comprato in centro a Milano, in questo, vabbè, condominio, sì, multiculturale, vabbè, che lui dice che non è ancora pronto, non può ospitare nessuno, ma in realtà risulta essere prontissimo. Vabbè, comunque scarsi. Di quelli che ospita a casa. No, vabbè, Salvini è l'unico, cosa. Guarda, la frase ospitali a casa tua, che è la frase più inflazionata e più senza senso di tutta questa fase, va bene solo per Salvini. Tu li vorresti a casa di Salvini. Se lo dice Morandi è bravo, se lo dice Salvini non è bravo. Decidetevi pure voi. Sì, vabbè. Infatti Morandi l'ho anche promosso stamattina. Però sapete cosa fanno in Germania? Allora, Germania che ha accolto i profughi, adesso dice, vabbè, adesso li abbiamo accolti, però ci dovete dare il tempo per organizzarci. Quindi A, chiudere le frontiere, cioè Schengen, B, controlli e C, questa notizia così che è passata in sordina perché adesso la Merkel è buona. Sai Federico Novella dove la Merkel ha piazzato 21 profughi? Perché dove? Nel campo di sterminio ex di Buchenwald. Perché bella immagine, insomma, no, perché l'Ungheria è cattivona appena vedono che un poliziotto alza, non so, si mette un dito nel naso. Vedete il poliziotto ungherese che si mette il dito nel naso? Io capisco che fare contrario, no, a una vocazione, ho capito, ma dai, ma c'è, cioè, ma lì vuoi metterti a discutere, ma li vuoi mettere a Buchenwald e quelle di Orban perché ha messo 21 profughi in un, no, campo, allora, carità, detto che io sono, è una settimana che dico che la Merkel ha avuto una visione politica e ha fatto quello che un leader deve fare. Non è vero, allora, secondo me, però vabbè, questa è la mia idea, però puoi mettere 21 persone. Poi ci dici anche perché non è vero a parole tue. Poi Fede, te lo spiego, ma con tutto lo spazio che c'è in Germania li metti nel campo di concentramento anche tu, cioè. Infatti, è una cosa che sicuramente è di cattivo gusto, che sarà sfuggita e sarà stata dettata dall'emergenza, siccome hanno voluto fare questa scelta. Sono entrati 60.000 profughi a Monaco, sì, in 2 settimane. Poi no, però mi interessa perché ha detto, però ciao, aspetta, bella per voi che avete deciso di farli entrare. Loro hanno detto un secondo, però mi interessa perché calma. Federico, sei contro la Merkel? È interessante questo, cioè, non perché... è che sono contro la Merkel, è che la Merkel sta facendo quello che sta facendo da sempre, cioè i suoi interessi, gli interessi del suo paese. Dovremmo imitarla, la Merkel. In questo dico che ha avuto una visione no, politica, sta passando per una grande statista, anzi una statista moralmente superiore, quando invece si sta scegliendo i rifugiati che possono essere utili alla sua economia. Per ogni siriano che entrerà in Germania ci sono 3 kosovari, serbi, albanesi meno integrabili, che si prenderà qualcun altro, probabilmente noi. Sì. Quindi non è buona la Merkel, è la più furba di tutti. Ma perché noi non siamo capaci di fare politica, quindi lei è riuscita politica. Anche con il colpo di solidarietà e di umanità, di accoglienza, sì. Sì. A fare una scelta che è assolutamente ma è quello che diciamo, cioè, non aspira alla santità, ma è stata visionaria dal punto di vista politico. Sì, ma la politica si fa così, politico. Non fa il Papa la Merkel, quindi lei doveva essere oculata sia per il suo popolo che in qualche modo, se fosse stato possibile al contempo, veicolare anche un messaggio di solidarietà invece che fare, cioè Orban sta puntando i piedi andando contro i suoi interessi, cioè 54.000 persone, l'Ungheria è uno dei paesi più sovraccaricati, potrebbe smaltirli, cioè potrebbe darli ad altri paesi pur di non accettare la linea di principio della solidarietà e quindi delle quote obbligatorie o meno, punta i piedi e si tiene 54.000 persone in più. Intanto questa ve la devo dire, vogliamo vedere Veronica Gentili mentre esulta scalza per il gol di Guarin, ma manco sa chi è Guarin, ma lasciatela stare. Dove gioca Guarin? Gioca nell'Inter che ha fatto il gol al Milan. Questo, non mi tirare fuori la cattiveria. Che miseria, ma com'è che stavolta ti sei... Se devo essere cattiva lo faccio. Va bene, c'è anche... Come ha segnato di te? Come è stato un bel un gol di culo, questo si sa, ma come adesso ha fatto? Adesso facciamo meno. Com'è stato il gol? Descrivici ipoteticamente, fai un po' la telecronista di questo gol, dai, raccontaci il gol di Guarin, immaginati. Ma come mai succede questo? Perché adesso anche la telecronista calcistica, ma come mai? Ma tu come lo descriveresti un gol? Guarin... All'89esimo avrei spaccato la TV di testa le segnato, curve tremano le curve tremano. Era scalzo, tra l'altro. Era scalzo. Chiaro. A un certo punto Guarin si toglie gli scarpini, si avvicina a rete, testa, è inutile togliersi le scarpe perché segna di testa e gol. La nostra Caressa, la Caressa, la Fabio Caressa dei Noantri. Vabbè, andiamo al traffico, che poi voglio sentire De Magistris che risponde a Salvini. C'è chi mi scrive: caro Alessandro, ti meriti un tifoso come Salvini. Grazie. Il traffico. Mamma mia, non ce la faccio più e datemi questo benedetto traffico. San Marino è stato contestato che è andato a New York, eccetera, ma almeno lui ci è andato con i soldi suoi. Questa brava persona che predica bene, razzola male, ci va con i cazzi dei soldi nostri. Ma perché? Stando qua non poteva collegarsi e dire brava la Pennetto, brava quell'altro. A noi non ci passa nemmeno per il cazzo che lui va là, sono soldi nostri. Milan, prima si abbattono i cinghiali, adesso le marmotte perché fanno danni. I politici, ma quando possiamo abbatterli sti politici? Alessandro, è inutile che tu continui a parlare di cose bla bla bla bla bla bla. E non ci capisci una sega! Senti, signor Milan, sarebbe l'ora che cominciasse a sei a trasmissione, perché che cosa là, Luciano fa 2 ore e mezza e tu fai mezz'ora soltanto la mattina, insomma sei un po' sfaticato allora, e lo sai che poi leggi il giornale, fai tutto quanto la rassegna stampa, invece la mattina è più bella, fai un'oretta a posto di mezz'ora, che cazzo, veramente faci tutto come tu vuoi, con i giornalisti comandato l'Italia. vabbè ancora con questa storia Veronica Gentili e Federico Novella, ma fate iniziare Federico Novella alle 8 invece, fate questa bella petizione. Ma in che lingua si esprime il signore? È fantastico il nostro amico napoletano che ogni giorno, oh mamma mia, la polemica di Renzi a Flash Meadows, ma sapete che c'è questa foto che ha diffuso tra l'altro il suo portavoce Filippo Sensi, in cui sembra lì in bianco e nero, con dietro lo stadio, con le mani unite, e il commento più bravo è: gli è apparsa la Madonna. Sembra lì Renzi che no, ma guardate, l'ho pubblicata sul mio profilo Twitter, Alino Milan, andate a vedere. Sembra Renzi che gli è apparsa la Madonna, proprio. L'estasi di Matteo. Questa si presta a 1000 interpretazioni, mi trattengo, eh. No, perché? Quali interpretazioni? No, che spiegherebbe tante cose. L'estasi di Matteo. Ecco l'estasi, la foto. L'estasi. Senti qua De Magistris che attacca Salvini, eh. La Lega, per nascondere le questioni che hanno riguardato Bossi e famiglia, adesso si presenta come un soggetto nuovo che nuovo non è. Vuol far vedere che si presenta come soggetto nazionale e allora non attacca più i meridionali, attacca quelli che stanno, quelli che sono più terroni dei terroni. Ma noi siamo per la solidarietà dei terroni, per un manifesto dei terroni di tutto il mondo. E dire che anche Salvini è un terrone alla fine, quindi lui forse non lo sa, ma è terrone pure lui. È terrone pure lui, eh. Vabbè. Cioè, perché De Magistris sa che se c'è un modo per offendere Salvini è dargli del terrone. È dargli del terrone. Esatto. Ma senti un po', ma leggo qua facce di casta. Guarda qua, pagina 17 del Fatto Quotidiano. Sai pronto, che Federico vai. Novella dà i voti, la nostra Veronica Gentili. Facce di casta. Ha dato 4 al vicequestore Matarazzo. Sai dove è intervenuta la vicequestore Matarazzo? Proprio da noi è intervenuta. A dire... Lo so, avevo letto, penso ero già pronta ad inviarti questa proposta, tutto da lungo mail dicendo solo tu riesci a tirare fuori queste cose dalla gente. Il vicequestore Matarazzo che vuole multare a Roma i clienti delle prostitute mandando a casa le multe. Così puoi anche leggere il titoletto se vuoi. Perché Roma non va da puttane. Questo è il titolo. Esatto. Voto. Se non allora, c'è già andata, peraltro. Esatto, no, c'è già andata in realtà. Ma la cosa impossibile è che vi pare a voi che Marino torna dai Caraibi con tutto quello che è successo, i Casa Monica, il salotto di Vespa, Mafia Capitale, facciamo. Tra l'altro era una cosa che io l'anno scorso avevo seguito per la gabbia, tutto lo zoning, l'Eur. Quello ha un suo senso. Dopodiché facciamo le sanzioni di 500 euro da mandare a casa in cui la moglie, detto, perché l'hai intervistata, quindi l'hai sentito, la moglie vede l'orario e la via e quindi capisce, quindi sostanzialmente sempre con l'anima italiana bigotta e puritana è la moglie che poi davvero sarà la punizione per il marito. Come sei infervorata su questo ma tema. Ma è possibile che a Roma non sappiamo più dove guardarci, voi fate le battutone che stia facciamo Multa, multa è la nuova rubrica, multa e mattarello. Certo. Oltre alla multa, secondo me in calce verrà allegato il numero dell'avvocato matrimonialista da chiamare. Ma forse è quello, secondo me. Tempo. Esatto. È il senso, capito? Poi ovviamente ha dato 8 a Gianni Morandi, che pareva. No. 8 a Gianni comunque, Morandi. Ragazzi, ora non vorrei così. Diamo i voti a caso. Sì, 8 a Morandi. Si chiama Parlamento, che quindi il livello lo possiamo mantenere basic. 8 a Morandi. Una conversazione così cheap da bar, leviamo pure la mia. Illuminaci tu. Otto perché di mezzo. Intanto Gianni Morandi, da quando sui social network è riuscito a dare una lezione di stile e di eleganza a tutta ragazzi. Questa manica di invasati, grevi, trucidi, e quindi su questo già chapeau, perché non è che io fossi una fan di Gianni Morandi a priori. Detto questo, il tormentone è ospitali a casa tua. Otto Morandi. Otto Morandi. Fermati qua, no, devo far sentire la Boschi, sennò non ce la facciamo. Facciamo sentire la Boschi, perché devo sentire se le C suonano. Ci vogliono 3 ore e mezza per noi. E le S sibilano, fermi tutti, eh. Il noi voto. Ha avuto questo terrore dei numeri dal primo giorno, tutti a dirci non avrete numeri per la legge elettorale, per il Jobs Act, per il divorzio breve, per la responsabilità civile dei magistrati. Come che dice Jobs? In gazzetta ufficiale, e i cittadini vedono gli effetti di queste riforme. Beh, Federico, devo dire che è tornata in gran forma, secondo me. Ma sì, gli votiamo tutti i senati che vuole, Jobs Act, quello che vuole. Sentili anche maschilisti. Ma che maschilisti? Ma finisce. Ma che maschilisti? Ma smetti. Senti, ma di che ti occupi tu alle 9, caro Federico? Diciamo... Alle 9 mi occupo di pensioni. Perché pensi, ti proietti nel futuro? Guardo lontano. Ma 8 a Morandi, dai. 8 a Morandi. Non ci si può proprio riuscire. Veronica, guarda, ci dobbiamo lasciare perché sennò devo dare lo spazio al giornale. Ci dobbiamo lasciare perché ho messo 8 a Morandi. 8 a Morandi, ci dobbiamo lasciare. Questa non me la dovevi fare, le chiavi sono sullo zerbino, 8 a Morandi, non sullo zerbino, non di casa Morandi, lo zerbino di casa, puoi venire a ritirarle quando vuoi, 8 a Morandi, dai, non si può. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Eccoci qui allora alle 7:17 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Si è aperta ufficialmente la 124esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. È ormai ufficiale, anche se vabbè, si è aperta con la sconfitta del Milan. La Gazzetta. Ma basta, dai! Guarino parte il tiro. Che palle! Tre gol Inter in vantaggio. Dai, su. Vabbè. Dai, noi parleremo di scuola oggi. Andiamo in onda fino alle 9:30 anche questa settimana. Parleremo di scuola con il sottosegretario del Ministero Davide Faraone, il responsabile della CGIL Scuola Mimmo Pantaleo. Oh, Peter Pescapè pensa che vi sia arrabbiato veramente. Perché mi ha rimesso per la 400esima volta il gol di Guarin. Bel gol, bravo Guarin, bravo, bravo. Ma parleremo anche di profughi, di emergenza immigrazione, che ovviamente è l'apertura per molti quotidiani. Questo fino alle 9:30. Intanto andiamo a leggere cosa ci propongono i giornali. Allora, è lunedì 14 settembre, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre sul fisco, sempre aperto il cantiere dei bonus, questo è il titolo di prima pagina, mentre gli altri quotidiani si dedicano soprattutto alla vicenda migranti. Per il Corriere della Sera, migranti, Berlino ferma i treni, questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica, Grecia, strage di bambini in mare, la Germania chiude le frontiere. Si rovescia barcone, 39 morti, metà bimbi. Il giornale, l'Europa chiacchiera, intanto muoiono altri 15 bimbi. Immigrazione non stop in prima pagina. Anche per La Stampa, la Germania ripristina i controlli alle frontiere, altra strage di bambini. Il Messaggero, migranti dietro front, Merkel, la sorpresa, la Germania chiude le frontiere, blocca i treni dall'Austria, accusa Italia, Grecia e Ungheria. Queste alcune delle aperture, l'Unità invece si dedica all'Expo, Expoi, questa è la domanda, capitale del diritto al cibo. Vicino l'obiettivo dei 20 milioni di visitatori, vinta la sfida, si progetta già dopo. Questo è il titolo di prima pagina dell'Unità. Come detto, però, noi ci occuperemo di scuola e sono tanti gli articoli che si dedicano e si concentrano su questa tematica, visto che oggi per molti studenti, la gran parte degli studenti, riaprono e riprendono gli anni scolastici. Una scuola più a misura di studente, questo è ciò che scrive Claudio Tucci. Almeno sul Sole 24 Ore, entro mercoledì saranno tutti in classe, le novità già in vigore, altre da attuare. Sono 600 milioni gli stanziamenti pronti per gli alunni, scrive il Sole 24 Ore. Ovviamente ci sono tutte le novità, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole secondarie, analizzate dal Sole. Mi interessano alcuni articoli, poi li approfondiremo. Intanto un'intervista al rettore della Bocconi, dell'Università Bocconi, che racconta un po' quello che Alberto Forchielli ci ha detto qualche giorno fa, no? Quando ha presentato il suo libro su come si trova lavoro all'estero, ha detto bisogna puntare alle materie scientifiche. Allora leggetevi l'intervista ad Andrea Sironi, rettore della Bocconi, intervistato dal Corriere della Sera, da Giovanni Stringa, a pagina 19. Dovete innamorarvi della matematica. Così il rettore della Bocconi dice: voi avete una grande responsabilità, ho detto a 700 insegnanti di matematica. Fare innamorare gli studenti della cultura scientifica e la formazione universitaria di cui c'è più bisogno in Italia, dalle scienze della vita fino a quelle tecniche e sociali come l'economia. Proprio oggi, nelle nuove rilevazioni del Financial Times, racconta il Corriere della Sera, la Bocconi è salita al nono posto nella classifica mondiale dei master di gestione aziendale e dice il rettore, la Bocconi investe 24 milioni l'anno in diverse agevolazioni, dalle borse di studio fino alle esenzioni, e molti dei nostri laureati vanno all'estero, ma ci sono anche molti stranieri che arrivano in Italia per studiare all'università e una volta laureati restano e lavorano. Ma certo, dice, l'importanza della matematica, puntare di più su questo e puntare di più anche sulle scienze fin dalle scuole superiori. Tra l'altro, la scuola quest'anno si caratterizza anche per molti insegnanti che, sapete, tra mille polemiche, avranno una cattedra dopo l'assegnazione, grazie all'algoritmo e alla famosa lotteria che c'è stata qualche giorno fa. Ebbene, volete sapere chi è il padre di questo algoritmo? Oggi La Stampa racconta chi ha inventato tutto questo. Flavia Amabile racconta a pagina 15, si tratta di un professore che tra l'altro è un professore di matematica che ora è di ruolo mentre era un precario fino a poco tempo fa, si chiama Paolo Fasce, è il professore che ha inventato la formula per assegnare le cattedre ai precari, è un prof di matematica che insegna a Genova, dice: per carità non attribuitemi le carenze. Qualche anno fa, racconta, era un precario molto arrabbiato, faceva parte del comitato Precari Liguri e da matematico trovò una soluzione per svuotare le graduatorie anche allora in cima ai miei pensieri e trovai gli strumenti nel ramo della matematica istituito da John Nash, noto in letteratura come teoria dei giochi. Condensai quella mia idea nella proposta scientifica per un veloce assorbimento delle graduatorie ad esaurimento. Ed ecco, il risultato è l'algoritmo. È lui che ha inventato l'algoritmo in base al quale il Ministero ha deciso poi l'assegnazione delle cattedre. Dice lui: la paternità e il merito di aver avuto per primo l'idea mi vanno riconosciuti, ma non certo le lacune o le carenze che sono derivate. Vabbè, ci sono, ripeto, tanti articoli sulla scuola, anche sulle università, sul Sole 24 Ore, visto che inizia l'anno, e allora in bocca al lupo a tutti gli studenti, ovviamente. Voglio raccontare invece un'intervista a Stefania Cucchi, scusate, a Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che è morto in ospedale nel 2009 dopo essere stato arrestato. Sapete che ci sono nuove indiscrezioni, nuove testimonianze che parlano di presunte violenze da parte dei carabinieri una volta che c'è stato il fermo e quindi la possibilità di riaprire l'inchiesta. Ilaria Cucchi, proprio a pochi giorni, 22 ottobre, saranno 6 anni dalla morte di Stefano, dice in questa intervista a Repubblica, intervistata da Maria Novella De Luca: ho lottato 6 anni per amore di Stefano, ora per fermarmi mi devono uccidere. Il senso di colpa di quei giorni non mi ha più abbandonato, mi sono fidata delle istituzioni, aspettato i timbri della magistratura, intanto Stefano moriva dentro nel carcere nel disinteresse di tutti. Dopo la nostra tragedia, quel protocollo che vieta ai parenti dei pazienti detenuti di parlare coi medici è stato abolito. Anche rendere pubbliche le foto di Stefano morto è stato durissimo, ma oggi nessuno può fingere di non aver visto quel corpo. E siamo al preludio di una seconda inchiesta. A volte dico che dovranno uccidermi se vogliono fermarmi. Non sono stanca. Escono nuove prove, a cominciare dalle testimonianze dei carabinieri, che ci porteranno una svolta, ne sono certa. Dimostrano che Stefano è stato massacrato già nella caserma dei carabinieri, ancor prima di arrivare nelle celle del tribunale di Piazzale Clodio. Ed ecco allora l'intervista su Repubblica. Si riapre probabilmente il caso Stefano Cucchi. Mentre incredibilmente potrebbe chiudersi un altro caso, un caso che riguarda un signore che è stato incarcerato sulla base delle testimonianze dei suoi propri figli, minorenni all'epoca, è stato messo in carcere, ha scontato 15 anni per abusi sessuali sui propri figli. Solo che cosa succede? Come raccontano oggi i giornali, lo leggo sul Messaggero, lo leggo sul Giorno, sulla Stampa, i figli dicono, ora che hanno 19-22 anni, ci siamo inventati tutto. O meglio, siamo stati istigati da nostra madre a mentire. Ed eccola allora la notizia sul Messaggero: in carcere per abusi, i figli ritrattano dopo 15 anni. Mamma ci fece mentire. Due fratelli ora chiedono la revisione del processo per il padre, condannato a 9 anni di carcere, dicendo: è tutto falso, nostra madre dopo la separazione ci costringeva a dire queste cose. Anche sul Giorno, i figli: papà non ci violentava, lui in cella dopo 15 anni esce la verità. È un racconto shock che viene da Brescia, costretti dalla mamma a inventarci tutto, soprattutto tutte le molestie che in realtà non sono mai accadute. Mentre ritorna incredibilmente la vicenda di Stefano Esposito, assessore ai trasporti di Roma, colui che in un'intervista qui alla Zanzara su Radio 24 ha detto spesso in passato urlava allo stadio Roma merda, lui che è assessore al comune di Roma, ma in quanto grande tifoso della Juve, e vabbè, le ha proprio tutte, l'assessore Esposito, oggi sul Corriere della Sera torna con Ernesto Menicucci a fare un'intervista a mezza pagina sul suo rapporto con il calcio. Eccolo qua, l'assessore degli insulti alla Roma ora dice invidio Totti che vincerà lo scudetto. Stefano Esposito: sono bianco-nero nella miglior tradizione degli immigrati, sono di origine napoletana ma juventino da quando giocavo a calcio, terzino destro con licenza di offendere le gambe avversarie. Non vado praticamente più allo stadio, sono tornato solo un paio di volte dopo la finale di Coppa dei Campioni all'Eisel, ero allo stadio, non ho neanche visto la partita, sono andato via, quella gara non si doveva mai giocare. Certo, ho fatto varie volte a botte, conferma, ma ne ho prese più che date. Ma è pentito di quel Roma merda? Non vengo da una famiglia nobile, risponde l'assessore Esposito. Mio padre faceva il bidello, mia madre l'operaia, ma ho imparato due cose, l'onestà e il non essere ipocrita. E ancora dice, ma tanto ora la Roma vincerà lo scudetto, quindi tira una gran gufata anche alla Roma e da juventino. Lei è più anti-interista o anti-romanista? No, la Fiorentina è sempre in cima. Poi c'è il Toro, dopo ancora vengono Roma e Inter. Vabbè, insiste l'assessore Esposito e la sua passione per il calcio fa un'intervista nella quale ribadisce un po' tutto. Ma eccoci qui. Siamo all'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Quello che ci fa tenere le mani ben strette sul volante se siete alla guida. Oppure, mi raccomando, caffè bollente da appoggiare, brioche da non schiacciare. È un'inchiesta del giornale di Antonio Ruzzo, a pagina 14 e 15, che sentenzia quanto segue. Prima di cos'è che abbiamo parlato, il rettore della Bocconi, che dice che bisogna puntare alla scienza, alla matematica, alla cultura scientifica. Eccolo qui. Ogni giorno 33.000 italiani si rivolgono a maghi, chiromanti e guaritori per problemi di salute e lavoro. Viviamo in un mondo dominato dalla scienza, ma ogni giorno siamo stregati dai maghi. 33.000 che si rivolgono ai maghi. Ma si può essere più coglioni? Ma io non lo so. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, di Cigirietria dell'informazione. Di Cigirietria sono un piatto tipico del Salento, della provincia di Lecce, a base di ceci e pasta fresca fatta in casa. E Ale, ottimo. Ale, ottimo, no, mi fido. Sulla fiducia, alle 7.35 è quello che ci vuole. Com'è che si chiama il piatto? Peter Vescovi. Sì, non lo ripeterò mai per non compiere questo errore. Comunque, grazie cari ascoltatori, vi abbiamo chiesto di mandare tutte le vostre sigle nei vari dialetti, 0246524492 la nostra segreteria telefonica, come sapete. Come detto, molti giornali aprono ancora sull'immigrazione, c'è una nuova tragedia, soprattutto una nuova strage di bambini in Grecia questa volta. Come racconta Luigi Offeddu a pagina 2 del Corriere della Sera, ora possono anche chiamarlo il mare di Erode, l'Egeo, perché inghiotte ogni notte in silenzio degli innocenti. Ieri altre 34 morti, tra loro 15 minorenni, una strage, 4 neonati, 6 bambini, 5 bambine, prigionieri dell'acqua sotto il barcone capovolto che li aveva portati via dalla costa turca verso il miraggio chiamato Unione Europea. I loro corpi non sono stati ritrovati, così come quelli di altri 4 bambini scomparsi tra le onde il giorno prima vicino all'isola di Samos. Nessuno, scrive il Corriere, riesce più a contare i migranti vivi e morti del 2015. E intanto la Germania cosa fa? Beh, la Germania, sapete che Angela Merkel aveva detto c'è, apriamo le porte, c'è bisogno di 500.000 profughi all'anno e tanti siamo in grado di accoglierne. Beh, a questo punto evidentemente queste porte aperte, questa generosità della Germania è stata troppo, la pressione umana sulla Germania si è fatta insostenibile ed ecco allora che il ministro dell'interno tedesco ha annunciato bisogna controllare di più le frontiere. Parlano i giornali di dietrofront della Merkel, la Merkel che cambia rotta. In realtà c'è stata una pressione, come racconta Repubblica, Andrea Tarquini a pagina 2, solo ieri a Monaco di Baviera sono arrivati in 12.000, portando il conto a 40.000 persone arrivate in tre giorni. Dormono ovunque, nella stazione centrale, sotto ogni tetto offertelo a grandi aziende, militari e volontari. Ecco che allora il ministro dell'interno tedesco ha detto la grande disponibilità della Germania non deve essere sfruttata troppo e abbiamo deciso di applicare controlli provvisori ai nostri confini per arrivare a una procedura ordinata di afflusso dei migranti che garantisca la sicurezza. Dunque è una questione non tanto di chiudere le frontiere ma di controllare questa pressione che si è fatta esagerata. Per questo li stanno mettendo un po' dappertutto. La polemica ovviamente è diventata molto forte quando alcuni dei profughi, per la precisione 21, sono stati messi addirittura temporaneamente nell'ex campo di sterminio della Seconda Guerra Mondiale di Buchenwald. Come racconta Il Secolo XIX con Isabella Villa, alloggi per i profughi nell'ex lager di Buchenwald. Le polemiche in Germania dopo la decisione di un sindaco del distretto di Mitte. C'è il dolore ovviamente dei sopravvissuti alla Shoah che dicono quello è un museo per ricordare una tragedia, mettere persone umane lì davvero è come minimo inopportuno. In ogni caso da oggi si riunisce l'Europa, continua a discutere, in realtà da oggi il famoso piano della ripartizione, le quote, i centri di gestione temporanea dei profughi, tutto questo sono all'ordine del giorno degli accordi e dei discorsi che si stanno tenendo in Europa. Fiorenza Sarzanini racconta a pagina 3 tutti i dettagli, ma Fiorenza Sarzanini sarà nostra ospite dalle 9.05 a capire allora come l'Europa cercherà di fronteggiare questa emergenza. Tra l'altro vi segnalo anche un'intervista interessante, o meglio qualche dichiarazione. Ricordate la famosa famigerata immagine di quella reporter ungherese che atterra con un paio di calci alcuni profughi che stavano scappando dalla polizia in Ungheria, poi è stata anche licenziata per questo ignobile gesto. Ebbene oggi Repubblica mette invece la foto di chi? Delle persone che sono state sgambettate e che ce l'hanno fatta. Si tratta di Osama Al-Gadab e il suo figlio Ziad, che nelle immagini si vede cadere travolto dal padre che viene sgambettato e piangere. Ebbene, ce l'hanno fatta, sono a Monaco di Baviera, siamo in salvo, ma non perdono la giornalista dello sgambetto. Eccolo qui, non è stato un viaggio facile, dicono all'Huffington Post, riporta Repubblica. Mio figlio ha pianto per 2 ore dopo quello sgambetto, ci hanno fatto cadere e lui ha pianto 2 ore e non posso per questo perdonare quella donna. Non mi basta che l'abbiano licenziata, racconta l'Huffington Post, ora sto cercando un avvocato per denunciarla. Ci ha fatti cadere e siamo per questo stati arrestati. Perciò ci hanno preso le impronte digitali in Ungheria e dunque il rischio si chiama Trattato di Dublino, perché dove vieni identificato dovrai rivendicare il diritto di asilo e lì dovrai rimanere. Questo è il terrore ora di questo padre con il figlio. C'è anche un figlio più grande con lui di 17 anni, anche se in questo momento si trovano in Germania. Vabbè, lasciamo la questione profughi, veniamo a quello che succede in Italia, dove il dibattito è legato all'articolo 2 del Senato. Ah, uno di quei temi che lo so vi appassiona tantissimo. I cappuccini si mettono a fibrillare. Oh, utilizzo questa, la schiuma del latte dei cappuccini vostri, lo so che freme appena sente parlare del Senato e dell'articolo 2. Comunque il dibattito c'è, perché sapete che la minoranza del PD vuole cambiare l'articolo 2 del Senato. Quello vuole un Senato non più da eleggere con i membri che vengono nominati dalle regioni, ma un Senato elettivo. Calderoli ha la soluzione. Eccolo qui, pagina 5 del Corriere della Sera. La mia soluzione è questa: fare un Senato in cui 21 senatori verranno scelti tra i sindaci da parte dei consigli regionali. Gli altri 74 senatori, poi ce ne sono 5 a vita, gli altri 74 senatori restanti verranno eletti direttamente sulla base di una legge ordinaria che seguirà. Dunque Calderoli propone un mezzo e mezzo, un po' eletti dai cittadini, un po' dai consigli regionali, e dice: ho sentito tutti i partiti, tutti i partiti sono d'accordo, avremmo il 70-80% dei voti e i renziani diventeranno la minoranza della minoranza. E vabbè, questa è la visione di Calderoli, intervistato da Alessandro Trocino sul Corriere della Sera. A un certo punto gli si chiede: ma Calderoli, 500.000 emendamenti che lei ha, per la precisione sono 510.293, ma ne ho pronti, sentite qui Calderoli, ne ho pronti altri 8 milioni. Per un totale di 4.500 tonnellate di carta da stampare. E sappiate che sopra il milione di tonnellate il Senato non è in grado di stampare. Ma sì, disboschiamo l'Amazzonia, abbattiamo qualche selva di Germania, distruggiamo qualche bosco, perché dobbiamo presentare 8 milioni di emendamenti presentati da Calderoli. Va bene così, tutto per la riforma e la discussione dell'articolo 2 del Senato. Cioè, mica... Ecco, mi verrebbe un'espressione un po' così alle 7.45. Renzi invece, reduce dalla passerella alla vittoria di Flavia Pennetta a New York, dice, e ci sono i soliti retroscena con articoli sul Corriere, sulla Stampa, dice ai suoi: oh, questa è sulla Stampa, duro periodo, o meglio periodaccio per i gufi, i numeri li abbiamo. E invece sul Corriere della Sera: ce la facciamo, alla faccia di tutti. Anche su Repubblica Francesco Bei racconta nel retroscena: Renzi, ce la faremo coi numeri, addirittura pensa all'appoggio di Silvio Berlusconi. Vedrete che alla fine Berlusconi voterà la riforma del Senato. Su questo si concentra anche Giuliano Ferrara nel suo editoriale del lunedì. Prima però credo che sia il momento del traffico, giusto Peter Bescapè? Dobbiamo mettere... siamo arrivati al momento giusto, mi pare. Caro Alessandro, ah, no! Non è il momento del traffico. Ah no, è vero. Mauro Meazza, scusa, è lunedì, ogni tanto mi... scusa, è distrazione, sì, mi sono dimenticato. Ti voglio come stai, segnalare... caro Mauro? Ma tutto io a posto? Sto bene, sono preoccupato per te, tu come stai? Benissimo, cioè, a parte un mal di schiena fastidioso, ma non c'è problema. Cos'è? Sei in forma. Il tiro, rete, Guarin, grande in vantaggio. Niente, sono rumori di fondo. No, infatti. Ma io vorrei chiederti: ma ti fa più arrabbiare il tiro di Guarino o il fatto che tutti dicano che avete giocato bene? Perché questo... No, abbiamo giocato, ti correggo, abbiamo giocato molto bene. Oserei dire, abbiamo giocato molto meglio dell'Inter, ma voi avete il solito culo da derby. Va bene, ma finirà questa fortuna di Mancini. E comunque io sono fiducioso, ho visto un bel Milan. Sei fiducioso, molto bene. Allora, guarda, c'è la tua foto fiduciosa alla pagina... oggi alla pagina 25 del Sole 24 Ore. Ho perso la fiducia di colpo. La guardavo ora? No, la guardavo perché al di sopra ti parliamo dei reati a mezzo social network. Siccome oggi per te sarà una giornata di grande sfottò, in realtà hanno cominciato già ieri sera. Vabbè, ecco, allora sappi quali sono i tuoi limiti, consulta prima la pagina 25 del Sole 24 Ore, dove trovi anche una tua bella foto. Ma a me piace sfottere se sfottuto, quindi negli ultimi anni soprattutto essere sfottuto, ma va bene così. Ti voglio anche dire che dal 1 ottobre cambia l'APE. Cambia? Che non è l'insetto, ma è la sigla di attestato di prestazione energetica. Ah, ecco, appunto. Ecco, però è importante per la costruzione degli immobili e anche per acquisti e vendita. Allora, leggi poco più oltre, dove c'è la tua foto, la foto del Milan. Oggi riesco a dire questo nome con una certa facilità, chissà perché. C'è la foto di Milan e poi due pagine più oltre c'è questa cosa della pagella di immobili. Naturalmente tutti gli sconti fiscali sul Sole 24 Ore nell'ultimo anno e pochi mesi, sono 56, adesso dice che li riordinano tutti, è il momento decisivo, vediamo se ci riescono, è stato già un problema riuscire a farne di conto. E ti voglio anche dire che oggi scade il termine per ravvedersi. Sì, ecco. Per ravvedersi sui pagamenti dell'IMU, hai pagato l'IMU. Sì. Ecco, 90 giorni, ci sono 90 giorni per ravvedersi. Non so se qualcun altro si vuole ravvedere di come Bescapè, eccetera, che amaramente. Ma Bescapè è tutto il giorno che continua a rimettere il gol di Guarini. Non so, si vuole fare del male così. È il suo momento masochista. È nella fase blu di Picasso. È masochista. Che devi fare? Senti, ti rubo ancora solo un minuto. Uno solo di sinistro per dirti che ovviamente su Sole 24 Ore di oggi trovi le pagine di Lavoro e Carriere e soprattutto una guida alla scelta dei master, dei master post laurea, che è una guida su carta e poi anche prosegue sul sito, ma ci sono tutte le informazioni naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi. E adesso uno solo parola. Sì, avete già vinto il tricolore, certo, sì. Ma l'Inter sicuramente, scudetto già sulle maglie per No, ma io penso che voi, visto il gioco espresso ieri sera, possiate senz'altro aprire un ciclo. Quindi il mio augurio tu me le tiri fuori, subito si contraccambia, va bene, finiamola qua, se no diventiamo veramente patetici, caro Alessandro, anzi caro Milan. Traffico! Alessandro Milan, informazione che non è mai stata in B, tantomeno due volte. Ragazzi, cioè ormai, non so, venite qui e datemi pure un calcio nelle parti basse. Cosa devo fare oggi? State infierendo su di me, ma noi risorgeremo, porca miseria, noi del Milan, perché noi siamo il Milan, va bene? Attaccare, sempre, sempre e comunque. Ah, ragazzi, che dura che è. Allora, Giuliano Ferrara, come detto, sul Senato, racconta nel suo editoriale sul Foglio del lunedì. Sentite qui, non male oggi. Ho avuto un incubo, sudato, molto grasso, lacero, plebeo, intruppato in una massa di forconi con bandane e asce, sfondavo le porte di Palazzo Madama. Sparatorie, bastonate, coltelli, corde, Miguel Gotor veniva sventrato per primo. Uno spettacolo raccapricciante, Corradino Mineo freddato con un colpo di fucile dopo il devastante ingresso in aula, al petto squarciato. Poi la violenza si è abbattuta su Vannino Chiti, preso a bastonate sulla testa da un manipolo di macellai. Non vi dico il resto. 28 senatori dissidenti dalla maggioranza fatti secchi, un mare di sangue, urla indemoniate. Unica imperturbabile, Madonna Boschi, non faceva una piega e sorrideva sotto braccio alla sconvolta Anna Finocchiaro. Non è un presagio, ovvio, tantomeno un auspicio di congiura. Sarà stata un'indigestione, una tensione freudiana a sfondo sessuale. Il problema è che non ho capito molto bene la posizione politica dei dissidenti del Senato. Vogliono far saltare il banco per darci il diritto di eleggere direttamente una Camera dalle autonomie che non vota la fiducia al governo? Ma non è che esagerano? Capisco che Matteo Renzi possa risultare insopportabile. La ditta aveva certe caratteristiche: condivisione, consociazione, collegialità, un'oligarchia sola al comando. Da quando un boy scout ha rilevato il disastro con discreto successo, abilità manovriera, spregiudicatezza comunicativa e una linea di governo giusta per accompagnare e radicare un minimo di ripresa dell'economia, della società e delle istituzioni, beh, da allora qualcosa si è rotto nei cuori e nelle menti di quelli di prima. Ma sono sicuri di poter evitare un isolamento politico e psicologico durissimo da sopportare? Questo si chiede Giuliano Ferrara oggi sul Foglio, ma staremo a vedere. Intanto la polemica è per la Lega, che dice ai comuni: uscite dall'ANCI, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni. Salvini dice: ci sono tutti i comuni leghisti pronti a uscire, ma saranno anche di più. E Piero Fassino fa oggi un'intervista, Piero Fassino, il sindaco di Torino, nonché presidente dell'ANCI, fa un'intervista a Repubblica a dire: dai sindaci leghisti l'addio è incomprensibile. Vi cito solo questa, prima di chiudere. È una storia che viene dall'America, una storia di dolore perché riguarda la morte di una persona, una 23enne morta di cancro al cervello. Ma cosa ha deciso di fare poco prima di morire? ha deciso di farsi congelare il cervello. Sapete che la criogenetica, ci sono questi nuovi studi che promettono in un futuro ci sarà modo di far rivivere le persone. Ebbene, racconta Repubblica la storia di questa ragazza, Kim Suozzi, che poco prima di morire ha deciso di farsi ibernare il cervello. Facciamo vedere anche l'articolo di Repubblica in diretta su Periscope. Oh, su Periscope dobbiamo far vedere anche il titolo della Gazzetta dello Sport. Guarda, guarda come la tocco con le pinze, con le pinze. Eccolo qua, il titolo della Gazzetta dello Sport è questo: Inter un pieno di felicità. Questa è la Gazzetta. Attaccare! Questa è la Gazzetta, questo è un muro. Anzi, facciamolo. Ho fatto qualche anno fa. Eccolo qua, la Gazzetta di oggi. Attaccare! È questa qua, a brandelli. Va bene, siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali. C'è una mezza pagina, mezza pagina su Sharon Stone, Bocelli, Lady Renzi a Firenze. Ma chi se ne frega! Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Ciao Milan, che te portino via fuoco. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, fai tutto tu. E allora siamo qua, sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, andiamo in diretta fino alle 9:30 anche questa settimana. Che dire, riaprono le scuole, cari genitori, lo so che magari state ascoltando in questo momento in macchina mentre state accompagnando i figli a scuola, soprattutto i più piccoli, a dire oh, non vedevamo l'ora, riaprono le scuole, non sapevamo più come gestire questi figli. Sappiamo a chi sbolognarli finalmente. Per la verità in alcune zone d'Italia sono già riaperte, ma oggi è il grande giorno per 8 milioni di studenti, si stima, e anche per molti insegnanti. Ebbene sì, gli insegnanti, quelli soprattutto i protagonisti di questa celebre lotteria, no? Sapete che il 97% degli insegnanti a cui è stata assegnata una cattedra hanno deciso di accettare. Su 8.776 proposte di assunzioni, 8.532 hanno detto di sì. E allora non lo so, tutte le polemiche su questa lotteria, sull'algoritmo che è stato creato tra l'altro da un professore che si è svelato finalmente, è un professore di matematica, si chiama, oggi lo racconta la stampa, Paolo Fasce, era un ex precario e adesso è un docente di ruolo di matematica a Genova. L'ha inventato lui questo algoritmo che ha deciso l'assegnazione delle cattedre, e le polemiche sulle deportazioni, hanno parlato di deportazione, hanno fatto un'offerta di lavoro, come molti italiani che ricevono offerte di lavoro non sotto casa e la accettano oppure rifiutano. O no, lo voglio subito chiedere a Mimmo Pantaleo, segretario della CGIL Scuola. Buongiorno Pantaleo. Buongiorno a voi. O non è così? Allora, tutto sto cancan. Ma guardi, innanzitutto bisogna chiarire di che cosa parliamo, perché insomma ho l'impressione che c'è molta confusione in giro. Noi abbiamo avuto queste fasi, questo campionato di calcio, diciamo. Sì, la lotteria. La zero, A, B, C. Sì, sì. In realtà noi abbiamo avuto due fasi, 0A, che hanno assegnato i posti su base provinciale e sono stati il grosso dei posti. Poi abbiamo avuto una terza fase, circa 9.000 posti, che sono stati assegnati con questo algoritmo. Voglio ricordare che il professore di matematica, per amor della verità, che si è assunto, diciamo, la paternità di questo algoritmo, ha detto però guardate come è stato gestito, non sono convinto, per amor della verità. Sì, ha detto che se ci sono carenze non sono colpa mia, le hanno fatte a me. Non sono colpa mia. Sì. Che cosa è successo? È successa una cosa precisa, che si è fatta la fase B con questi 9.000 posti, i cosiddetti posti disponibili, cioè quelli che erano occupati precedentemente da precari, il grosso era al nord, e quindi una grande quantità di insegnanti precari meridionali è stata trasferita al nord. Sì. Noi non avevamo hanno accettato, che accettato. Perché? Non perché hanno un anno di tempo per fare ancora le supplenze. No, diciamo. Quella è un'altra questione. Poi molti hanno fatto le supplenze, perché la legge dice che se tu fai la supplenza il trasferimento avverrà il prossimo anno. Sì. Quindi che cosa è successo? Che in realtà la maggior parte dei posti sostanzialmente al nord, perché c'è un numero di alunni che cresce, anche se questa ho capito, cioè, è successo che hanno offerto un posto di lavoro e il 97% lo hanno accettato. Erano obbligati a farlo, perché una volta che hai fatto la domanda, anche questo va chiarito, perché insomma vedo tanta confusione. Se tu non accetti, sì, chiaro, esci ovviamente dalle... Esci, cioè paradossalmente se uno non fa la domanda rimani iscritto nelle graduatorie di esaurimento. Se uno fa la domanda e non accetta, perde l'iscrizione alla graduatoria e non ha più un posto. Ho capito, però Pantaleo, scusi, per anni si dice precariato. Una volta che ti offre un posto di lavoro, a questo punto o lo prendi oppure però, via. Il punto è che tra queste persone che oggi sono trasferite al nord, io le posso assicurare, sì, che c'è grande amarezza e anche grande disagio, perché qui stiamo parlando, il Presidente della Regione Emiliana ha fatto una proposta che è rimasta a lettera morta di sostenere, diciamo, le spese per coloro. Stiamo parlando di gente che si trasferisce al nord con 1.300 euro. Ma è chiaro, ma queste infatti sono le problematiche che abbiamo affrontato. Però Pantaleo, le voglio presentare il sottosegretario all'istruzione che torna con noi, Davide Faraone, la ringrazio. Buongiorno Faraone, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, questo 97% dice Pantaleo in pratica sono obbligati ad accettare, no? Partiamo da questa cifra, una cifra che in realtà lei può dire a questo punto polemiche inutili, abbiamo dato posti di lavoro e basta? È stata un'estate surreale in cui sembrava che si stessero spostando il 97% delle persone dal sud al nord, che si fosse, diciamo, questa famosa parola depersazione come un termine incredibile, su cui si è costruito mediaticamente un fenomeno che alla fine si sta verificando non esservi. Abbiamo invece avuto uno straordinario successo, una straordinaria accettazione, giustamente gli insegnanti, di un posto di lavoro che io credo che, se lo analizziamo non soltanto dal punto di vista della scuola, ma lo analizziamo dal punto di vista della società, se chiedi a un cittadino italiano se vuoi firmare un contratto alla pubblica amministrazione, un contratto a tempo determinato, la possibilità di avere, di chiedere un mutuo, di avere una pensione, credo che la stragrande maggioranza degli italiani accettano. Perché allora? Polemica è incredibile, e parliamo di 160.000 persone poi nei due anni. Poi, se geograficamente ci sarà una parte di mobilità dal sud al nord, è semplicemente perché ci sono più studenti al nord e più precari al sud. È più precari al sud. A meno che Pantaleo o il sindacato non propone di spostare gli studenti dal nord al sud, l'unica possibilità che sud in parte questa insomma ma è chiaro, ma questo è quello che anche provocatoriamente molti hanno detto, e che facciamo, spostiamo gli alunni dove ci sono gli insegnanti. Però Faraone, mi faccia capire perché allora, dopo Zaia che è stato nostro ospite, anche Emiliano, che è presidente della Puglia, che è del vostro stesso partito, ha impugnato questa legge sulla buona scuola dicendo è incostituzionale, ha fatto ricorso come Regione Puglia alla Corte Costituzionale. Lei che dice, Faraone? Intanto io credo che di fronte alle questioni di merito non ci siano i partiti, ma ci siano i rappresentanti istituzionali. Per cui, se Emiliano, come Presidente della Regione Puglia, ha ritenuto di voler impugnare il provvedimento, bisogna chiedere a Emiliano perché l'ha fatto. Noi siamo determinati e convinti che invece la scelta che sembrava aver costruito elementi di polemiche si sta rivelando assolutamente azzeccata, sia sui numeri di risorse umane in più che assegniamo alla scuola, se ne accorgeranno nei consigli d'istituto quando saranno di più gli insegnanti rispetto all'anno scorso. Abbiamo fatto una media di 7-8 insegnanti in più a scuola, questo vuol dire poter tenere aperte di più la scuola, fare più attività, e abbiamo fatto anche una stima di circa 30-35 mila euro in più per poter far funzionare le scuole. Questo vuol dire, ricorderete le polemiche, non so se si è fatta più una trasmissione, sul contributo volontario chiesto ai genitori. Come no? Quello per la carta igienica. Da quest'anno, con questi 35.000 euro, il contributo dei genitori eventuale è veramente volontario, perché i soldi strutturalmente ci sono. Cioè, quindi si sta dicendo che se se lo diciamo ai genitori che stanno ascoltando, stanno portando i bambini a scuola, se si sentiranno chiedere c'è bisogno di 30 euro, 40 euro, le cifre poi variano all'anno, come contributo uno, è chiaro che era volontario anche l'anno scorso, anche gli altri anni, cioè non è che uno ti puntava la pistola alla tempia, Faraone, uno poteva darlo oppure no. Era volontario anche l'anno scorso, chiaro, però quest'anno, siccome gli abbiamo dato il doppio dei soldi alle scuole rispetto a quelle che avevano l'anno scorso, potrebbero spiegare che ne fanno dei soldi in più che vi chiedono. Fatevi spiegare che ne fanno dei soldi in più, beh, questo è interessante. Pantaleo, allora, vabbè, vogliamo uscire da questa cosa, da questa polemica della mobilità, basta, cioè, ma lei ha sentito parlare di deportazione? Ma anche lei è uno di quelli che dice... No, guardi, io non ho sentito parlare di nessuna deportazione, però dico una cosa al sottosegretario Faraone. Innanzitutto io chiedo una cosa precisa, sì, che venga fatta chiarezza su come sono state fatte queste fasi, perché in giro c'è anche il sospetto di tante incongruenze, di tanti problemi che si sono avuti, a cominciare dalla Sicilia. L'algoritmo, perché? Che è successo in Sicilia? Perché abbiamo avuto casi, ad esempio, di docenti della primaria con l'abilitazione a sostegno che sono stati messi a fare la secondaria superiore, o addirittura a Napoli abbiamo avuto casi di gente che si è presentata nella sede e non ha trovato la cattedra, insomma... chiediamo che su tutta questa parte, lo dice la legge sulla pubblica amministrazione, non mi sta mica facendo dei ricorsi. Qualcuno invece vuole fare che venga rispettata la legge che dice che nella pubblica amministrazione tutti gli atti devono essere resi pubblici. Questo solo sto chiedendo. Due, credo che dire oggi che ci sono più insegnanti, diciamo, anche questa è una cosa, come si può dire, che non risponde del tutto alla verità. Noi avremo più insegnanti quando verrà fatta la fase C, cioè quando verrà fatto l'organico potenziato. Sì, attualmente sì. Noi abbiamo, come tutti gli anni, la copertura del turnover più i posti disponibili che, ripeto, erano coperti da supplenti, e in più abbiamo 60.000 supplenti, perché in realtà la supplentite non è stata superata. Quindi io mi auguro che, diciamo, rispetto a tutta questa questione dell'organico... Alla fine vedremo, ci sono tante cose ancora da sistemare. Però Pantaleo, le chiedo, scioperi sono in vista? Perché, sai... Guardi, noi non è che abbiamo scioperi, stiamo continuando la mobilitazione. Eccola. Perché è nostro interesse che vengano risolti tutti i problemi. Ad esempio, mentre si discute dei docenti, del personale assistente tecnico amministrativo non si discute. Molte scuole non possono aprire perché non hanno né bidelli... e sono stati tagliati assistenti tecnici amministrativi, quindi ripariamo la versante dei docenti, abbiamo un problema sul personale ATA, come fa il sottosegretario Faraone, e noi abbiamo notizia anche oggi e domani all'apertura che molte scuole, molti dirigenti scolastici non fanno apro. Fatica ad aprire qui scuole. Faraone, quindi la scuola, no ma è chiaro, ma la scuola, mamma mia, è un mondo talmente complicato. Io posso dire una cosa, Faraone, che in realtà io sono un padre di due figli, vanno alle scuole elementari. Però non riesco a stare dietro a queste cose, a questo mondo così variegato, scolastico, con mille polemiche, non ce la faccio. Cioè, tutte le questioni sindacali, non so. Lei le capisce, cioè, ma lei che si è messa a fare? Che si è messa lei a fare? Può permettersi di non occuparsi. E lei invece è obbligato. Io sono obbligato, devo dire che però alla fine, al di là delle tante polemiche che emergono sempre sulla scuola, è un mondo straordinario su cui la stragrande maggioranza delle persone lavora e fa con passione il suo mestiere. Poi l'inizio dell'anno scolastico è sempre stato abbastanza complesso. Quest'anno, con una riforma fatta poco prima dell'estate, nessuno avrebbe scommesso una lira sul fatto che noi potessimo riuscire a completare questo percorso in tempo. Io credo che questo sia un fatto positivo, il fatto che si sia verificato. Però mi faccia capire, cioè, molte delle cattedre, cioè, c'è l'opzione per chi ha accettato di stare un anno a fare supplenza, se stava facendo supplenza, e quindi di rimanere dove sta, e quindi diventerà la cattedra, verrà assegnata a partire dall'anno prossimo, in pratica. Ecco, di questi, no, praticamente, di questi quanti, cioè, con che percentuale succederà questo? Pantaleo ha ragione nel dire che inizia l'anno scolastico, quindi da oggi gli insegnanti saranno pressappoco gli stessi, ma li abbiamo assegnati per tempo, quindi non ci sarà più, come è accaduto in tutti gli altri anni, che arriveranno insegnanti in corso d'opera. Entro novembre verranno assunte 55.000 persone in più, 55.000 insegnanti in più, quelli saranno il potenziamento, quindi entro novembre ogni scuola avrà 7-8 insegnanti in più, entro dicembre verrà indetto il concorso per assumere altri 80.000 insegnanti che ci serviranno per annullare completamente la supplentite. Quindi quegli 80.000 del concorso, l'avevamo detto noi, che l'iter assunzionale si chiude in 2 anni, è scritto nella legge. Sì, però no, ma la domanda noi avremo questo sì, in 2 anni. Però la questione è questa, di questi 8.532 che hanno detto di sì, però possono in virtù della stessa legge godere di un anno se fanno supplenza e non spostarsi. Ecco, di questi 8.532 quanti poi non si sposteranno per un anno? Non si sa ancora. Considerate che il fatto che noi si desse agli insegnanti che si devono spostare almeno un anno di transizione per potersi organizzare mi sembra un fatto di civiltà. Certo, no. Questo secondo me è stata una scelta corretta, dopodiché loro già sanno che il prossimo anno il fenomeno dovranno farlo, è chiaro. Naturalmente, quindi parte di questi, una parte consistente di questi 8.000 non si sposteranno, tra quelli che dovrebbero spostarsi ma non si sposteranno quest'anno. Però non c'è una statistica, già facciamo una stima finale della famosa deportazione: circa soltanto il 10% degli insegnanti si sposteranno rispetto alla sì, città. Ma poi guardi, ma questa cosa è un fenomeno assolutamente marginale, questa cosa della deportazione è una cosa talmente ridicola, anche offensiva, perché il peso delle parole è importante, lo dico da giorni, insomma, quante persone vanno in capo al mondo nel mondo privato per cercare lavoro. Devo concludere, però Faraone, mi dica questa cosa, ma è vero, annunciano migliaia di ricorsi invece i docenti, quelli che hanno fatto il numero chiuso di medicina, dicendo che non era stata garantita l'identità, il controllo dell'identità agli esami di medicina, e quindi si preannunciano migliaia di ricorsi. Questo glielo dico così, l'ho letta sui giornali nel weekend, l'ha letta anche lei? L'ho letta anche io, una roba che si verifica già da un po' di tempo, e noi a questo accesso alla facoltà di medicina dobbiamo essere mano. Sistemarlo un po', perché non va bene che sia un pennallotto affidato a test di un giorno a stessa facoltà di medicina, per cui quest'anno sarà l'anno in cui riformeremo l'accesso alla facoltà di medicina, cioè, non nel senso chiuso, non il numero chiuso, cioè il test, cambierete il test? No, cambieremo il test, ci sono tante modalità possibili di praticare il numero chiuso, con maggiore orientamento, con la formazione affidata direttamente all'università, con dei test più calzanti, con un anno che può essere l'anno in cui si costruisce la selezione. Se ci sono, oppure fare più prove anziché una soltanto, sì, che sì, è quella sì, di un giorno solo. Beh, diciamo, ci sono per rendere più utile questo. Tante modalità, questo sarà l'anno in cui si cambierà questo. Va bene, io intanto vi ringrazio. Davide Faraone, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Mimmo Pantaleo, segretario della CGIL Scuola. È il momento della pubblicità, poi ritorneremo, parleremo di immigrazione. Fino alle 9.30 state con noi. Allora, alle 8.41 minuti, siamo qui, tante telefonate all'800240024 sulla scuola, immagino genitori, persone che ci lavorano, sentiamo Lucia da Pisa, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno, ciao, non Lucia. Sentirti, piacere. Piacere. Niente, io sono una mamma di 4 figli. Oh, che bello. E quindi ho avuto sempre molti problemi nei primi giorni di scuola, quando dobbiamo pagare le cosiddette tasse. Sì, il contributo volontario. Il contributo ci volontario. Ci dà 30 loro... euro per le gite, le robe, no, le risme di no, carta. No, gite. No, no. Loro ti dicono, ci dia 60 euro. Sì, 70, no, 30, 20. Ha sentito io... Faraone, il sottosegretario, ha detto quest'anno hanno il doppio dei finanziamenti dell'anno scorso, le scuole. Gli chieda, scusi, ma vi sono arrivati il doppio rispetto all'anno scorso? Glielo chieda al dirigente. Comunque io vado ogni volta a scuola per fare l'iscrizione, perché io ho la prima figlia, si è già laureata, quindi non ho più questo problema. La seconda e la terza, che sono al liceo, una è in quinta e quindi avrò da pagare le tasse, quella in terza non deve pagare le tasse perché è sempre a scuola obbligatoria. Io vado col foglio del Ministero dell'Istruzione di Roma, che stampo dal computer, dove è scritto cosa è che bisogna pagare, cosa è che non bisogna pagare, ma loro non mi ascoltano. Insomma, parliamoci chiaro. No, obbligano, però parliamoci chiaro. La fanno sembrare una persona un po', come dire, insomma, guarda, Guardi, addirittura mia figlia non è riuscita a prendersi il libretto, sai dove segnano le assenze, sì, le presenze, i voti, perché non aveva pagato, il contributo scolastico. Mamma mia, ma che, ma dove va? In che scuola va? Io lo posso anche dire che il liceo è. No, non, sì, no, non vorrei crearle ulteriori problemi, Lucia. No, mio marito in segreteria ha grande e grosso sul tavolo e ha detto che vi denuncio tutti, allora gli hanno dato il comparso il libretto, magicamente. No, magicamente. Per noi ogni anno per me è un'ansia, perché ora vado, devo andare a segnare mia figlia a scuola, è un problema. Lucia, capisco benissimo, la ringrazio intanto per questa testimonianza da Pisa, e che dire, è vero, è contributo volontario, intanto il libretto zacte finché non dà il contributo o non batti i pugni sul tavolo. Paolo da Torino, Paolo, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno agli ascoltatori e agli ospiti presenti. Grazie per coprire un tema certamente importante, lo dico da padre di una figlia che inizia oggi il liceo, ma vorrei dirlo anche da capo del personale. Faccio questo mestiere interessante da molti anni, sì, e per questo vorrei cogliere un aspetto peculiare della discussione. Un'azienda privata, sì, una grande multinazionale, io seguo le attività italiane. E vorrei cogliere, proprio facendo la differenza con quello che vedo in altri paesi, il tema centrale della mobilità dei lavoratori. Sì. È un tema che probabilmente nella discussione sulla riforma del lavoro non è stato messo così in luce, e io credo che questa occasione dei precari stabilizzati dovrebbe aprire un poco lo sguardo attorno. Però quali sono dipendenti, perché, pubblici, è una cosa diversa, sa. Ma io credo che noi siamo lavoratori e che probabilmente di fatto si stia in qualche modo assottigliando quella barriera molto profonda tra. Ma lei cosa ci vuol dire, Paolo? Paolo, che bisognerebbe. Io voglio dire questo molto concretamente. Le piace più la mobilità mutuata dalla scuola? Non faccio un discorso di ciò che mi piace o di ciò che non mi piace. Credo che noi abbiamo bisogno di politiche del lavoro che vadano ad incidere sui meccanismi operativi dell'allocazione delle risorse. Cosa voglio dire? Fare in modo che ci siano i lavoratori là dove c'è il lavoro, sì, e che i lavoratori abbiano l'incentivo a cercare per loro il lavoro migliore. Cioè, perché, colgo le sue parole, non è così vero che nel mondo privato i lavoratori vadano in capo al mondo. Vanno in capo al mondo quando non lo trovano, a me è chiaro. Quando non lo trovano, molte volte abbiamo preferito per anni gli ammortizzatori sociali ad un lavoro a 20 km di distanza. Dobbiamo considerare che ci sono condizioni rispetto ad altri paesi attorno a noi, sì, sì, che rendono molto più difficile la mobilità del lavoratore. Il carico fiscale sul reddito da lavoro dipendente è molto più alto. Questo significa che le spese per la produzione del reddito, sì, sì, diventano molto più pesanti. No, ma è chiaro, Paolo, lei mi ha fatto un discorso anche molto più ampio e condivisibile in molta parte. La ringrazio per questo intervento. Devo andare a sentire le informazioni sul traffico, perché poi introduciamo il tema dei migranti anche con altri ascoltatori, ovviamente, sul tema della scuola. Continuate a chiamare, se c'è spazio vi do la parola fino alle 9:30. Allora, siamo qui, vogliamo per il momento accantonare il tema della scuola, introdurre il tema dell'immigrazione, che è un altro grande tema che oggi è sviluppato sui giornali. Perché? Perché tra l'altro in Europa si discute proprio sulla ripartizione delle quote dei migranti, ci sono state nuove tragedie, soprattutto in Grecia, si parla di 35 morti tra questi 15 bambini. Io voglio salutare di nuovo con noi l'ambasciatore ungherese in Italia, Peter Pazzolai. Buongiorno ambasciatore, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, le chiedo questo: l'Ungheria perché non vuole accettare il piano di ripartizione di quote che si sta discutendo in Europa? Voi lo rifiutate? Sì, il governo ungherese rifiuta dall'inizio, non fondamentalmente, cioè non è fondamentalmente contraria alle quote, ma dice che non ha senso parlare di quote fino a quando non siamo capaci di proteggere e controllare i confini esterni dell'UE. Cioè, adesso che c'è l'influsso dei migranti, in corso. Allora è prematuro parlare della riallocazione di questi migranti, del quale il numero non conosciamo neanche. Prima le frontiere, ma senta, ma l'abbiamo già affrontato la scorsa volta, ma siamo nell'Europa della libera circolazione e di Schengen, perché volete insistere su questo punto del controllo delle frontiere? Sì, perché addirittura il trattato Schengen, che prevede l'obbligo di controllare e proteggere i confini esterni dell'UE, perché è in minaccia proprio la libera circolazione di noi cittadini europei, come adesso io, se sarei in Ungheria, non posso andare in Bavaria perché ci sono adesso già due confini fra l'Ungheria e Bavaria. Questo è il pericolo che per, diciamo, il popolo ungherese, grande dono di Schengen era proprio la libertà di circolazione, sì, non vissuta per 40 anni. Vi hanno accusato, ambasciatore, lo vedrà anche in questi giorni, di avere politiche molto, molto dure nei confronti dei migranti. Perché voi dite, lo dice anche il premier Orban, c'è il rischio dell'invasione, anche della minaccia della cultura cattolica? Sì, lui ha avuto un cenno alla, diciamo, cultura cristiana d'Europa, le radici cristiane. Questo è il punto, diciamo, un punto che si deve riflettere, cioè l'Europa, i leader europei dovrebbero riflettere, perché adesso ci sono le quotazioni, insomma, sparse qui e là. Io dico che un flusso incontrollato di centinaia di migliaia di persone sconosciute, ma diciamo non europei, attraverso il proprio territorio, che è un processo che deve essere controllato, che deve essere messo in via legale, non illegale, perché se parliamo di uno Stato che senza protezione dei confini, dove sì, si possono entrare non in via legale, dove si accogliono questa gente, ma diciamo 500 posti differenti in 175 chilometri, questo è... Non va bene per me. Ma allora mi scusi, la Germania perché dice noi abbiamo visto l'opportunità e li vogliamo accogliere, 500.000 all'anno, sbaglia la Germania? Secondo me personalmente sì, questo era uno sbaglio, proprio i processi erano sotto controllo, anche se in una situazione molto difficile, fino a questa dichiarazione, e da allora che c'è un influsso incredibile di migranti disperati in Ungheria, adesso in Austria, adesso in Bavaria, in Germania. È proprio questo weekend derivato una conclusione drammatica dalla parte della Germania, dicendo che l'Europa non era capace a proteggere i confini e per questo devono chiudere il confine. In qualche modo lei dice anche questa decisione della Germania ha creato ulteriormente nuovi flussi. Noi staremo a vedere. Intanto io la ringrazio, ambasciatore Pazzolai, ambasciatore, ricordo, dell'Ungheria in Italia, perché dopo le 9, dopo il giornale radio delle 9, noi continueremo con questo piano europeo a cercare di capire che cosa si sta discutendo in Europa sulla ripartizione dei migranti. Prima però abbiamo la segreteria telefonica, la nostra segreteria telefonica mitica, dove potete scrivere, telefonare ovviamente, e dire quello che volete, poi noi vi mandiamo in onda, più o meno tutti. A Marino è stato contestato che è andato a New York, eccetera, eccetera, eccetera, ma almeno lui ci è andato con i soldi suoi. Questa brava persona che predica bene, faccia la mano, ci va con i cazzi dei soldi nostri. Ma perché? Stando qua non poteva collegarsi e dire brava la Pennetto, brava quell'altro. A noi non ci passa nemmeno per il cazzo che lui va là. Sono soldi nostri. Milan, prima si abbattono i cinghiali, adesso le marmotte perché fanno danni? I politici, ma quando possiamo abbatterli sti politici? Alessandro, è inutile che tu continui a parlare di cose bla bla bla bla bla, bla. E non ci capisci una sega! Senti, signor Milan, sarebbe l'ora che cominciasse il 6 a trasmissione, perché che cosa là, Luciano fa 2 ore e mezza e tu fai mezz'ora soltanto la mattina, insomma sei un po' sfaticato allora, eh? E lo sai che poi leggi il giornale, fai tutto quanto la rassegna stampa, quanto, invece la mattina è più bella, fai un'oretta a posto di mezz'ora, che cazzo, veramente faci tutto come se fosse un giornalista comandato l'Italia. Va bene, comandiamo l'Italia. Tonino da Padova, hai 20 secondi per dire la tua. Tonino, buongiorno, sulla scuola immagino. Ascolta Milan, no? Stavo ascoltando. Sì. Stavo ascoltando quel pugliese che ti prendeva per i fondelli, vabbè. Ascolta sì. Milan, io volevo dire solo questo sulla scuola. Io ho 16 anni, sono di un paese delle Puglie, per la precisione Chieuti. Sì. E a 16 anni sono andato a lavorare in Germania, vabbè, ho 70 anni. Ma dico, come cazzo fanno che si lamentano questi precari che hanno avuto un posto di lavoro solo perché da Bari vengono a lavorare a Padova? Ma mi sembra proprio una Tonino, puttanata. Tonino, proprio. Hai ragione da vendere! Hai ragione da vendere, Tonino! Bellissima. Concludo qui, eh? Ma andiamo avanti fino alle 9 dopo il giornale radio. State con noi. Buongiorno da Maurizio Melis. Pochi sanno che il più grande ostacolo da superare prima che un essere umano possa mettere piede su Marte o affrontare lunghi viaggi spaziali non riguarda, come si potrebbe pensare, problemi quali la propulsione oppure l'assenza di gravità prolungata, bensì la protezione degli astronauti dalle radiazioni. Lo spazio è pieno di radiazioni di ogni tipo, alcune delle quali molto difficili da schermare, come le particelle ad altissima energia generate dai fenomeni più violenti del cosmo. Parliamo in pratica di proiettili lanciati alla velocità della luce, tanto che le armi a particelle sono un classico della fantascienza. D'altronde anche l'unico modo per fermarle è abbastanza fantascientifico. Infatti ci vuole uno scudo magnetico, un po' stile Enterprise. E l'Agenzia Spaziale Italiana ne ha ideato uno basato su una configurazione dei magneti completamente nuova, più leggera delle precedenti. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:50. Buona giornata. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Oggi è lunedì e come sempre abbiamo l'agenda finanziaria della settimana. Stati Uniti d'America, Cina e Brasile, queste sono le aree geografiche da cui continuano ad arrivare notizie che da qualche tempo movimentano le giornate sui mercati finanziari. Questa è la settimana più attesa da mesi, è fissata la riunione della Banca Centrale Americana nella quale si potrebbe decidere il primo rialzo dei tassi di interesse dal giugno del 2006. E intanto è la Cina che continua a rendere ancora molto nervose le borse, il rallentamento economico di quest'area è nei fatti. Le autorità cinesi tentano con ogni iniziativa di arginarlo e queste iniziative prese o annunciate hanno dato una spinta ai mercati al punto che mercoledì scorso Tokyo ha messo a segno un rialzo del 7,7%. Una scure invece nei giorni scorsi si è abbattuta sul Brasile dove pur nella consapevolezza di un quadro economico difficile in maniera non del tutto attesa è arrivato il giudizio dell'agenzia Standard & Poor's che ha ridotto il giudizio sul debito brasiliano a livello junk, cioè spazzatura. A Piazza Affari, per quello che riguarda il ripasso dei casi che hanno movimentato la settimana, in forte movimento ci sono ancora i titoli del credito su cui pesano le novità relative alla nuova disciplina sui salvataggi bancari. Venerdì ha spiccato il volo Finmeccanica sulla notizia dell'accordo con il Kuwait per la vendita di 28 Eurofighter e sotto i riflettori ancora Saipem, per la quale sarebbe in corso una serie di contatti con la Cassa Depositi e Prestiti per un'operazione che punti al deconsolidamento da Eni. Prima di concludere un'occhiata ai temi su cui punteremo i riflettori in settimana. Martedì abbiamo la riunione della Banca Centrale del Giappone. Dagli Stati Uniti, oltre all'attesa riunione della Federal Reserve, aspettiamo i dati importanti sui consumi, vendite al dettaglio e inflazione di agosto. La Banca Centrale Europea pubblica il bollettino mensile economico. Domenica 20 ci sono poi anche le elezioni in Grecia, paese del quale non si parla più molto da settimane, ma con una crisi ancora del tutto irrisolta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Eccoci qui, 9 e 8 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Come di consueto questa settimana e anche la prossima andremo in onda fino alle 9.30. Allora, abbiamo avuto poco fa ospite l'ambasciatore ungherese in Italia, Peter Pazzolai. Ci ha detto chiaramente perché l'Ungheria è contro il piano di ripartizione dei migranti che si discute in questi giorni in Europa. È contro perché prima si deve risolvere la questione delle frontiere con flussi di persone che viaggiano per l'Europa, e allora finché non si risolve quello è prematuro parlare di quote. L'Ungheria è uno dei paesi assolutamente contrari a questo tipo di piano, che voglio dire, parlando di esseri umani e parlando di quote fa un po' impressione, però il dato di fatto è questo, per essere pragmatici. Oggi Fiorenza Sarzanini, che è a Bruxelles per il Corriere della Sera, ne scrive e scrive quali paesi sono contrari, l'Ungheria tra questi, ma non solo, e quali invece a favore. Fiorenza, buongiorno. Intanto, mi sembra un'Europa totalmente divisa o molto divisa, frammentata su questo piano di ripartizione, o no? Buongiorno a voi. Sì, divisa, e purtroppo, nonostante le buone intenzioni, tutto quello che si è detto dopo la foto del bimbo morto sulla spiaggia, dopo gli appelli anche di Angela Merkel, l'aria che si respira a Bruxelles non è affatto buona. Il rischio è che anche oggi tutto questo finisca con un appunto un proclama di buone intenzioni, ma nulla di concreto. Io, oltre all'Ungheria, Fiorenza, l'Ungheria ce l'ha detto, ma non è, appunto, sono i cosiddetti paesi dell'est, cioè quali sono i paesi più restii ad accettare questo piano? C'è proprio un blocco: Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, che hanno firmato un documento per dire no alle quote. Ma il problema non sono le quote, perché si può dire no a una ripartizione per quote, ma a un progetto comune di accoglienza. Invece questi paesi non vogliono l'accoglienza. Ricordiamo che l'ambasciatore, appunto, che prima diceva che perché l'Ungheria è contraria, ricordiamoci che l'Ungheria ha un premier che sta facendo costruire un muro, sì, che divida l'Ungheria dalla Serbia, perché non vuole uno possa entrare sul proprio territorio. È chiaro, questo è il problema, cioè il controllo di chi passa sul territorio, questo è un punto. È una cosa un po' più grave del fatto di dire facciamo prima delle cose. No, loro non vogliono assolutamente che nessuno transiti in Ungheria, anche perché ricordiamoci che l'Ungheria non è paese di arrivo, è paese di transito. Sì, un altro punto interessante, certo, un punto interessante che riguarda l'Italia sono i cosiddetti hotspot. Bisogna cercare di capire di che si tratta. Allora, si vorrebbero mettere 5 punti, uno è Lampedusa, ma ce ne sono altri, in cui fare che cosa in Italia? Allora, il problema dell'Italia è il seguente: l'Italia finora ha foto segnalato, cioè vuol dire che ha preso le impronte digitali e quindi fatto un'identificazione certa, soltanto del, diciamo, 60% di chi arriva nel nostro paese. L'Italia dice io non posso identificarli tutti perché i siriani, per esempio, rifiutano di essere foto segnalati. L'obiettivo di queste persone è evidente, poiché esiste il Trattato di Dublino, che ti obbliga a stare per 5 anni nel paese di primo ingresso. Queste persone non vogliono farsi segnalare, foto segnalare, perché loro non vogliono rimanere in Italia, loro vogliono andare in Germania, in Austria, negli Stati Uniti, quindi stare 5 anni in Italia loro non vogliono, quindi che fanno? Cercano di non farsi identificare in modo da fare il primo ingresso in Germania. Questo, diciamo che l'Italia lo ha in qualche modo un pochino anche agevolato, sì, ora, perché siccome eravamo paese di primo ingresso per migliaia e migliaia di persone, qualcuno veniva lasciato libero di andare via. Tutto questo adesso non è più possibile, perché l'Europa dice se voi volete che noi dividiamo l'accoglienza, cioè facciamo tutti parte di questo progetto di accoglienza, dobbiamo sapere chi entra, nei nostri, è chiaro, e quindi vanno paesi identificati. E quindi vanno identificati. Siccome l'Italia è il paese di primo ingresso, allora si fanno questi centri di smistamento dove gli italiani e i funzionari europei uno per uno identificano queste persone, chissà se anche su questo ci sarà un accordo. Fiorenza, però voglio presentarti Simona Bordonali, assessora alla sicurezza, protezione civile e immigrazione alla regione Lombardia. Buongiorno assessore, ben ritrovata. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lega, questo non l'ho detto, è partito Lega, che ne pensa di questa Europa? Lo so che sembra un po' da tifo calcistico, ma per lei fanno bene Ungheria? No, è un'Europa che dimostra assolutamente no, nel senso che siamo di fronte a un'Europa completamente allo sbando, dove non ci sono delle politiche comuni per quanto riguarda questo problema grossissimo, che ovviamente non è un problema di cui deve adottarsi nessuno dello Stato italiano, ma è un problema a livello europeo. C'è da dire un'altra cosa importante, per cui come viene gestito in modo diverso per quanto riguarda i vari Stati, ma bisogna ricordare che anche quegli Stati, come ad esempio la Germania, che viene tanto decantata nella sua umanità degli ultimi mesi, perché il problema esiste da 2 anni e mezzo e la Germania, abbiamo visto che con la Merkel si è svegliata solo recentemente a dare una risposta a questo problema. Ricordiamo che la Merkel ha detto: accogliamo solo siriani, sì, della serie, accogliamo solo quelli che però, siamo sicuri, sì, sono ma assessore, ma nessuno mi ha detto che all'Italia. Certo, ma nessuno mi ha detto che la Merkel sia buona. La Merkel no, ha fatto una scelta strategica. Qualcuno ha parlato brutalmente di investimento, sa, invecchiamo, non facciamo più figli, ha guardato a tra 40 anni, 50 anni, quando qualcuno dovrà pagarci con un'immigrazione qualificata, mentre lasciando i problemi, come lei ha ben detto, il problema dell'identificazione, il problema della migrazione economica e non di profughi, tutto questo ricade sull'Italia. Di questo fatto, è vero, questo è vero. La geografia ci ha messo lì un po' più a sud, purtroppo. Ma non solo la geografia, ma anche una gestione di politiche dove di fatto viene concesso attraverso soprattutto i tempi infiniti che hanno le commissioni e che hanno i tribunali italiani per decidere chi ha diritto alla protezione internazionale e chi invece è di fatto un migrante economico. Sì. Ecco, questi tempi, queste lungaggini fanno sì che ovviamente vengano lanciati messaggi anche al di fuori dei confini europei. Vediamo, a proposito di migranti economici, quelli che arrivano la maggior parte in Italia, la Lombardia è disposta ad accettarne ancora? Perché sa, c'è questo fronte, si parlava di 20.000 nuovi immigrati da smistare regione per regione. Ma guardi, non è la questione se la Lombardia è disposta ad accettarne, la questione è se ci sono le possibilità di ospitare ulteriori arrivi di questo tipo. Il problema è che su tutto posto il territorio non si può pensare che il posto non ci sia, semmai no, è guardi, da gestire le tensioni, le questioni. La invito a contattare i prefetti lombardi e a sentire le criticità, le problematiche, visto che lei benissimo sa che questa situazione, che questa divisione per quote non solo a livello europeo ma anche a livello nazionale sulle varie regioni, la famosa equa ridistribuzione, che poi di equo c'è ben poco, viene fatta attraverso le prefetture, senza il coinvolgimento delle regioni e senza coinvolgimento degli enti locali, dei comuni. E le prefetture, se lei ha avuto modo, avrà modo di parlare con alcuni prefetti, dicono che, non c'è... che sono completamente allo sbando, anche perché lo dimostrano l'accoglienza che è stata realizzata fino ad oggi. Nel primo periodo, quando l'emergenza non era con numeri così elevati, si trovavano posti presso cooperative, presso alberghi. Adesso no. Siamo arrivati alle tendopoli. A proposito di alberghi, le posso chiedere questo? Lei è assessore alla regione Lombardia. C'è un albergatore in Lombardia, in Valtellina, che ha denunciato minacce di morte perché accoglie profughi. Una parola di solidarietà verso questo? Ma sicuramente parole di solidarietà nei confronti di queste persone che però sanno benissimo che in una situazione di grande crisi, che sembra che venga voluta da questo governo, perché la gestione anche degli scontri sociali è un problema che si porrà, si sta ponendo oggi, ma si porrà per il futuro. Però dice solidarietà, ma anche il suo leader Salvini è andato a criticare duramente questi albergatori in passato. Io critico questi albergatori che dal mio punto di vista stanno speculando in questa situazione. Ovviamente dalla critica all'augurio alla minaccia, questo cose, no, questo no, assolutamente, questo, no. Questo assolutamente. Vediamo per chiudere questo argomento, Fiorenza Sarzanini, c'è una discussione, volevo solo chiedere una cosa, sì, all'assessore, sì, ma perché lei diceva, parlava eco ripartizione, che poi eco non è, in effetti la Sicilia si prende tutto il carico dei migranti. Quale sarebbe la soluzione? Cioè, bloccare il mare, quale sarebbe la soluzione? Aiutarle a casa loro, sempre. Assessore Bordonali, qual è? È facile. Ma penso che abbiamo avuto degli esempi pratici e concreti, quindi basta dire non c'è la possibilità, sono possibilità realizzabili. Quali? I respingimenti? Ma no, non solo i respingimenti, che sicuramente darebbero un segnale, ma aiutarli e creare dei centri profughi di partenza dove venire dalle pratiche burocratiche prima di partenza. No, sì, sa, la questione è appunto la Libia, ma sa, la Libia è un paese allo sfascio, la Siria c'è la guerra. Nessuno dice che quando era ministro, presidente Maroni, ministro dell'interno, e c'erano le parole arabe, ma non c'era, la Libia non c'era. Ah, questo è vero. Non c'era la situazione in Libia adesso, non c'era la guerra in Siria. C'era una Siria così. Ma io voglio ricordare che su tutto il territorio che si affacciava sul mare Adriatico ci sono state le primavere arabe, non è che non c'è stata questa situazione. Ah, chiaro, però c'era Gheddafi che brutalmente però controllava la situazione. No, stiamo parlando del post Gheddafi. Ah, del post Gheddafi. Sì, insomma, ricordiamoci, andiamo a vedere anche quali erano i numeri. Qua avevamo tutti i paesi che si affacciavano sul bacino del Mediterraneo che avevano subito, insomma, diciamo, i forti mutamenti, e abbiamo avuto 60.000 ingressi. La soluzione sicuramente, no, ma è chiaro, la situazione sicuramente non è facile, non è risolvibile, ognuno pensa di avere la ricetta giusta, però staremo a vedere anche oggi in Europa che cosa si decide. Vi devo salutare, Fiorenza Sarzanini, e vi ringrazio, Fiorenza Sarzanini, inviata del Corriere della Sera, e Simona Bordonali, assessora alla sicurezza, protezione civile e immigrazione della Regione Lombardia, perché voglio invece chiudere qualche minuto con Carlo Panella, di Libero, ma non solo. Buongiorno Panella, ciao, ben ritrovato. Perché abbiamo parlato della Siria tante volte, e spesso uno dei motivi di questi flussi di persone, di migranti o profughi in questo caso, che scappano dalla guerra, è perché molte persone fuggono dalla Siria. Mi ha molto colpito leggere Carlo Panella molto duro nei confronti di Obama, come colui che sarebbe uno degli artefici maggiori della situazione attuale in Siria, perché, o della non risoluzione della situazione attuale in Siria, perché? Ma perché molto semplicemente nel 2011-2012, quando c'è stata non la primavera araba ma una rivoluzione, la rivoluzione dei poveri contro i ricchi, a differenza di tutto quanto è successo in Egitto, in Tunisia, in Siria, si è creata una situazione in cui l'Occidente poteva intervenire, ma non militarmente direttamente, perché si è spaccato l'esercito siriano e la parte sana, che non voleva più massacrare i manifestanti, ne furono massacrati 50-60.000, quindi 10-20 volte tanto di quanto fosse successo in Libia, dove invece poi l'Occidente è intervenuto militarmente. Questi militari si sono messi a disposizione del popolo, si sono messi a sparare contro Assad, insomma c'era una rivoluzione armata e bisognava appoggiarla, che andava aiutata. Hillary Clinton dentro l'amministrazione americana era quella che premeva per un aiuto consistente a questa componente antidittatoriale. Gheddafi è un nazista, ma è un nazista da un punto di vista storico. Il suo partito era un partito alleato a Hitler, e Obama non volle fare niente in nome del suo non interventismo. Non so se vi ricordate la famosa linea rossa, sì, l'uso delle armi chimiche. Stavano per partire gli aerei per bombardare la Siria quando si scoprì che Assad usava le armi chimiche, e poi Kerry si è fermato una tutto. Proposta, e Obama disse no, facciamo il disarmo controllato dall'ONU. Il risultato è che Assad usa le armi chimiche contro i manifestanti a Iosa. E lì tra l'altro però l'abbiamo detto varie volte, Carlo, tu tra l'altro hai scritto il libro nero del califfato, e lì adesso c'è una situazione in cui da una parte c'è Assad e dall'altra un avanzare dell'ISIS, di questo Stato Islamico, questi fanatici, per cui non si capisce neanche a questo punto chi siano, chi possano essere i nostri amici. Non si può fare più nulla, no, hai ragione, non si può fare più nulla. Cioè il non interventismo di Obama, non dei democratici americani, badate bene, perché Hillary Clinton voleva aiutare questi disertori che lottavano contro Saddam, non interventismo di Obama, e soprattutto il fatto che lui ha puntato tutto su un accordo con l'Iran, che è invece una delle componenti del disastro siriano, perché l'Iran combatte attivamente a fianco di Assad, ha creato una situazione che è ingovernabile. Guardate che tutta la discussione che avete fatto fino adesso è arretrata, nel senso che si apre in questi giorni, si è già aperta la battaglia per Damasco, e i 500.000 profughi della Merkel sono già, diventeranno su proiezione con una minima affidabilità, molti di più, 2-3 milioni. Allora, ma infatti, ma il fatto che non si possa fare niente, e perché allora si dice, si parla, si racconta e si guarda anche con apprensione e attenzione il fatto che invece la Russia, sebbene dica mandiamo solo dei tecnici, è entrata, con, per usare un'espressione non russa ma americana, con boots on the ground, cioè con... è entrata lì con aiuti. Ma perché quando tu, la natura non fa salti, se la natura non fa salti, quando tu fai un vuoto di iniziativa politica, quando tu Stati Uniti d'America decidi, c'è un altro che lo riempie. La crisi siriana è una piccola crisi regionale che non ti interessa, poi il tuo avversario, il tuo competitor piglia occasione di questa mancanza di iniziativa e prende l'iniziativa lui. In questi giorni non assistiamo a un intervento militare di Putin contro l'ISIS e contro il califfato, non sparano un colpo contro l'ISIS, anche se dicono che la ragione è questa. Assistiamo alla fondazione di uno stato, di un satellite della Russia nella zona alawita, cioè nel nord-ovest della Siria. Questo è quello che sta succedendo. Per la prima volta nella storia la Russia riesce nel suo disegno plurisecolare, incominciò con il Zara, ad avere una testa di ponte, un po' come la Crimea, diciamo, nel Mar Nero, nel Mediterraneo. Cioè siamo di fronte a una situazione in cui la mancanza di intelligenza politica e di Obama e dell'Europa, che figurarsi. Beh, ma non c'è, l'Europa non ha una, non ha un'unità politica. Sì, ma neanche la Germania o la Francia singolarmente, stanno creando una situazione biblica. Tutto quanto, cioè, non è, anche quello che diceva l'assessore è ridicolo. Insomma, sono numeri, sono numeri. No, ma è chiaro, come si fa anche a dire di no di fronte a questo? Quindi tu stai dicendo che ci saranno molte più persone di quelle che abbiamo visto che tra poco si sposteranno. Guardate, l'unica cosa che si potrebbe fare seriamente, se ci fosse l'Europa, se ci fosse l'America, è quella di intervenire ad esempio sulla Turchia. La Turchia, che è un paese della NATO e che ha le sue mani in pasta in questa crisi siriana, perché cerca di ovviamente determinare il futuro del dopo Assad, è un paese che si sta comportando malissimo nei confronti dei profughi, malissimo. Sì. Però la mancanza di un'autorità, politico-militare, vuoi nell'ONU, che non è mai esistito, ha sempre fatto soltanto dei pasticci, vuoi negli Stati Uniti, vuoi nell'Europa, fa sì che in Turchia possano succedere cose come abbiamo visto in questi giorni. Sono un corso onorario della Francia che vende gommoni. Che vende gommoni, sì, questa è una notizia. In Turchia, ad esempio, tutti questi profughi sono passati per la Turchia, o grazie all'aiuto della Turchia. E nessuno fa niente, nessuno chiama il governo turco a una alle proprie responsabilità. In Libia non si può fare nulla perché è un disastro, chiaro, ma chiaro. In Turchia si potrebbe fare, ma vi ripeto, c'è un... cioè, Bruxelles si occupa, ma anche le cancellerie europee, di questa crisi con la stessa mentalità di quando decide quanto devono essere lunghi i cetrioli. Allora, io ti ringrazio Carlo Panella, ricordo il tuo saggio Il libro nero del califfato, e mi fermo qui anche per oggi. Domani alle 6.30 siamo puntuali con 24 Mattino.